1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7 e 19 minuti. Ben ritrovati, cari ascoltatori. Forza, forza, debosciati d'Italia. Bisogna produrre, come dico sempre. E vi ricordo che oggi parleremo di questa vicenda ancora, che è lo strascico del mondiale fallito. Sì, sì, parliamo ancora di questo, di calcio. Con Super Mario Balotelli, capro espiatorio per metà degli italiani, se non forse di più, e che rispondendo a un ascoltatore, a un tifoso che l'ha criticato dicendo non sei italiano, ha detto io mi sento italiano, ma certo i negri, come ci chiamate voi, non mi avrebbero scaricato così. È una frase che certo divide ancora di più l'Italia, che vive di pane, calcio e polemiche. E allora avremo ospite Giuliano Ferrara oggi alle 8:15. Ieri ha fatto uno straordinario elogio del morso di Suarez sul Foglio. E sarà con noi ospite anche Idriss Sanné, gran tifoso juventino, ve lo ricordate? E poi parleremo un po' anche di scuola, compiti a casa, farli, darli, non darli per l'estate dei nostri ragazzi, o meglio dei nostri bambini. E questo è un altro tema che i genitori sentono molto molto con passione e anche con rabbia a volte, quando vi trovate a dover fare magari adesso una bella gita estiva, pre-vacanze o in vacanza, o vi trovate in spiaggia e dovete sfoggiare un bel libro di compiti per i vostri figli. Va bene, ne parleremo dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. In questo giovedì 26 giugno, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sull'accordo con Etihad agli Emiri, il 49% di Alitalia. Dunque, anche se l'accordo non è completo, non si capisce sugli esuberi, non si capisce su come si comporteranno le banche, però c'è stato questo annuncio. I titoli invece sono variegati. Il Corriere della Sera apre con un patto debole per la nuova Europa, dunque il Consiglio europeo che si apre. Repubblica, giustizia si cambia, stretta in arrivo sulle intercettazioni. Anche il Messaggero apre con questo tema, intercettazioni, così si cambia. Per la Stampa invece, Unione Europea, Renzi chiede garanzie. Per Libero, la disfatta dell'Italia c'è costata 5 milioni. Mentre il Giornale ha questo titolo, italiani, meglio i negri. Balotelli, shock. Il Fatto Quotidiano, Ciro è morto, rischio vendetta, pronto il blocco trasferte. Ma voglio partire da che cosa? L'apertura del Secolo XIX, l'appello di tenere le mani strettissime sul volante se siete alla guida. La notizia è dell'arresto di due consiglieri regionali della Liguria, vale a dire Marilyn Fusco e Marusca Piredda. Arrestate le signore degli scontrini pazzi, questo è il titolo del Secolo XIX, Fusco e Piredda dell'Italia dei Valori ai domiciliari in Liguria. E la vicenda classica, l'accusa della procura è spese loro, soldi nostri. Guardate il titolo del Corriere della Sera, pagina 23. Vestiti e manicure a carico della regione per Fusco e Piredda. L'ex passionaria dell'Alitalia, l'hostess che nel 2008 esultava perché la trattativa con CAI si era arenata e che nel 2009 entrò in politica con Di Pietro, e la donna di punta dell'Italia dei Valori in Liguria a livello nazionale, Marusca Piredda e Marilyn Fusco. Sì, Marilyn come la Monroe, ma smettiamola di parlare di bellezza, disse una volta. Sono state arrestate ieri per ordine del GIP di Genova. Alcune delle spese a soldi con soldi nostri, secondo la procura. Mutandine, la Piredda. Eleganti cartelline stampate coccodrillo. Mont Blanc, la Fusco. e poi ristoranti, pizzerie, bar, neppure il cappuccino con brioche viene risparmiato al contribuente insieme al gratta e vinci comprato all'autogrill. Minuziosamente la finanza ricostruisce come Marilyn Fusco l'11 dicembre 2012 prende appuntamento con il centro estetico per farsi la manicure e regolarmente mette il taxi per andare dall'estetista in conto alle spese di rappresentanza dell'Italia dei Valori, così come Maruska Piredda, che frequenta con assiduità il bar Columbus a Peschiera Borromeo, abita poco distante, con la famiglia sempre a carico del contribuente. Ancora, estratto delle spese contestate a Piredda, cibo per animali, biancheria, sanitari, capi d'abbigliamento, parrucchiere, shampoo e messa in piega, lavanderia, lenzuola, piumini impermeabili, cravatte, calze, borse, profumi, tessuti di arredamento. Il Giorno titola così: in taxi dall'estetista paga la regione. Tenete le mani strette sul volante anche voi tassisti. Anche voi tassisti, se ci state ascoltando. A pagina 2 del Secolo XIX, Fusco e Piredda in arresto, dovevano lasciare la regione. Tra l'altro questo è interessante, secondo il GIP l'arresto è stato fatto perché sono personaggi socialmente pericolosi, si legge nell'ordinanza. Perché continuano ad avere un ruolo pubblico e a maneggiare il denaro dei contribuenti. Non si erano dimesse, il tribunale non può sospenderle per legge dal ruolo di consigliere regionale, perciò il GIP dice l'unico modo per tenerle lontane dal denaro dello Stato è stato arrestarle. Questa è l'accusa, ovviamente sono ai domiciliari. Tra l'altro vicenda che coinvolge anche simile Umberto Bossi, perché ieri è arrivata la notizia della richiesta del rinvio a giudizio da parte dei PM nei confronti di Umberto Bossi e dei figli. Invece non c'è alcuna richiesta di rinvio a giudizio per Rosi Mauro, vi ricordate, la cosiddetta passionaria dell'ex cerchio magico di Bossi. Umberto Bossi che rilascia un paio di interviste, una a Repubblica, Tommaso Ciriaco, qualche scambio di parere, parla della partita, l'avevo detto che passava l'Uruguay, sì, però Senatur, una brutta botta, chiedono di mandarla a processo, dopo tutto il casino che avevano armato era logico che facessero qualcosa, non potevano chiuderla così, ma noi non abbiamo fatto nulla, nulla di nulla. E vabbè, poi su Balotelli fa un gesto con la mano, non si sbilancia e dice però Prandelli non è in grado, questo Umberto Bossi. Voglio però affrontare ora un tema molto molto sensibile legato a un fatto di cronaca, tutti i giornali dedicano spazio a questa vicenda. Una ragazza di 16 anni che a Forlì si è tolta la vita. Che succede però? Che questa ragazza, prima di togliersi la vita, ha fatto un video nella quale accusa i genitori e dice: io andavo benissimo a scuola, ma non mi lasciano fare nulla, mi sento come in prigione, non riesco più a vivere. Ha lasciato questo video, poi si è tolta la vita. E la vicenda non è finita così, già il dramma potete immaginarlo. La procura di Forlì ha aperto un fascicolo indagando i genitori per istigazione al suicidio. Francesco Alberti ne parla a pagina 25 del Corriere della Sera. Indagati i genitori della liceale suicida. Ha trasformato il suo suicidio in un atto d'accusa contro i genitori. È salita sul tetto del liceo classico di cui frequentava il terzo anno con ottimi risultati. Si è prima tagliata le vene, poi ha registrato un video di 30 minuti nel quale, stando a quanto riferito dagli inquirenti, ha lucidamente elencato le mortificazioni, i divieti, le vessazioni alle quali la sottoponevano da anni il padre e la madre. Mi sento in prigione, tutto mi è vietato, posso solo suicidarmi, alcune delle frasi più forti. E poi, spenta la telecamera, la giovane 16 anni si è gettata di sotto. Gli stessi inquirenti parlano di passo doloroso ma doveroso, quello dell'apertura delle indagini per approfondire l'intero contesto, tutelando sia la memoria della giovane vittima sia i genitori. C'è anche un commento sul Corriere di Fulvio Scaparro, il titolo è «Quell'incubo che paralizza le famiglie», scrive Scaparro, che è uno psicoterapeuta: «Nessuno di fronte a casi tragici come quello della ragazza suicida Forlì si dovrebbe sentir rassicurato per il fatto che forse, ripeto forse, sarebbero stati individuati due colpevoli. Sappiamo che una comunità spaventata ha bisogno, se c'è una vittima, di trovare il carnefice, ma meglio riflettere prima di condannare. I due genitori hanno visto realizzarsi il peggiore degli incubi. Una figlia che, sentendosi incompresa per gridare ai genitori «io esisto», cessa di esistere, per di più accompagnando il suo gesto con l'accusa nei loro confronti di non aver compreso e condiviso i suoi sogni. La giustizia farà il suo corso, se ci saranno stati maltrattamenti i responsabili ne pagheranno le conseguenze, ma in attesa degli accertamenti proviamo a pensare che questi genitori non sono maltrattatori, ma simili a tanti altri, simili a noi stessi, talvolta troppo rigidi, talvolta non attenti ai segnali di sofferenza e depressione dei figli, spesso sinceramente convinti di far bene. E stringiamoci attorno a loro, perché la tragedia è grande, la comunità è tale, perché non passa sotto silenzio la morte di una ragazza, ma partecipa unanime al lutto. Molti, troppi genitori, scrive ancora Scaparro, oggi sono quasi paralizzati dall'idea che se si rifiutano di fare ciò che i figli vogliono, i ragazzi potrebbero ricorrere a misure estreme. Non è il no che i figli temono, ma l'indifferenza, l'avvertire che i genitori non hanno voglia e tempo di conoscerli, di ascoltarli. La piaga dei suicidi adolescenziali non è una novità nei nostri giorni, non potrà mai essere totalmente debellata, ma sembra crescente il numero dei ragazzi fragili che non possono contare sulla guida di adulti troppo spesso distratti e fragili a loro volta. Beh, non c'è un pensiero, voglio dire, sono quelle classiche situazioni in cui c'è poco da, insomma, da avere un'idea, ognuno ha la sua, ognuno lo può pensare come vuole. Anche sulla stampa, liceale si ammazza, indagati i genitori per istigazione al suicidio. E il giornale, l'hanno spinta al suicidio, indagati i genitori. L'ultimo divieto, le avevano vietato di andare a studiare in Cina e lei ha detto «mi sento incompresa». Non ci sono commenti da fare, andiamo solo in pubblicità e rientriamo con le altre tematiche, a cominciare dalla politica. Alessandro Milan, per cupone dell'informazione. Allora, le 7:37 minuti, cari ascoltatori, intanto c'è la politica. La politica, beh, si apre oggi il Consiglio europeo e ovviamente tutti sono concentrati sulle nomine, e sembra sempre più chiaro che Jean-Claude Juncker sarà colui che guiderà la Commissione europea. Come titola pagina 2 il Corriere della Sera: Europa sul tavolo, nomine e crescita, Juncker guiderà la Commissione. E tra l'altro c'è il retroscena pagina 3 del Corriere della Sera con Marco Galluzzo, che racconta ciò che è la strategia italiana. Debita distanza dai riflettori mediatici, oscurata dalla partita delle nomine, che avrà probabilmente un doppio step almeno formale, con un nuovo Consiglio europeo convocato nella seconda metà di luglio, l'Italia in queste ore sta trattando il suo assenso per la composizione della nuova Commissione. Renzi ha dato questo mandato ai suoi sherpa. Oggi si presenta al vertice europeo convinto che l'enfasi della Merkel sulla crescita è anche la nostra, che l'obiettivo di cambiare verso l'Unione Europea è ormai a portata di mano, che l'accordo sui nuovi vertici dell'Unione deve essere globale e in qualche modo concludersi tra stanotte e domani. Sono tematiche ovviamente per chi si occupa, chi si appassiona a quello che avviene anche in Europa come nomine, mentre in Italia pagine e pagine sul dialogo per la legge elettorale, ovviamente alimentato dall'incontro che c'è stato ieri tra Matteo Renzi, che è giunto a sorpresa dopo che aveva detto che non avrebbe partecipato all'incontro, con Luigi Di Maio e altri rappresentanti del Movimento 5 Stelle. 4 di qui, 4 di là. PD e 5 Stelle parlano anche di preferenze. Questo è il titolo del Corriere. Repubblica, il dialogo Renzi e Movimento 5 Stelle, si torna alle preferenze, se c'è il ballottaggio, qualche schermaglia, qualche battuta. Renzi per esempio sulla proposta di legge del Movimento 5 Stelle che prevede cancellare in qualche modo chi prende troppi voti con le preferenze, se si discosta troppo dai voti presi dal partito di appartenenza, dice Matteo Renzi, mi sembra quasi una proposta da grande fratellum, la chiamerei così, o complicatellum. Ma Di Maio replica, la cancellazione dei nomi serve a evitare impresentabili nelle liste. Pensate a cosa è successo a quel vostro deputato per cui è stato da poco richiesto l'arresto. E Renzi che replica, il PD ha votato per l'arresto. Insomma, qualche schermaglia, ma accenni di, se non altro, dialogo. Renzi che punta su una legge che comunque garantisca la governabilità e apre in qualche modo al dibattito sulle preferenze, tanto che tutto ciò ha allarmato Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi che ieri ha fatto l'appello attraverso un'intervista al giornale al direttore Alessandro Sallusti a dire i moderati si riuniscano, riuniamoci tutti insieme. Per la verità, secondo il Corriere della Sera, per il momento non ha raccolto grande entusiasmo da parte degli alleati di una volta, a cominciare da la Lega di Salvini, ma soprattutto un Berlusconi che è preoccupato perché di fronte a questo accenno di dialogo tra PD e Movimento 5 Stelle sente e teme il tradimento. Questo almeno è il titolo della stampa. Ugo Magri ne scrive a pagina 5. Berlusconi si sente alle strette e teme il tradimento. Se non fosse per Verdini, scrive Ugo Magri, che passa il tempo a rassicurarlo circa le intenzioni di Renzi, se non fosse per lui e per il capogruppo al Senato Romani, altro pompiere, Berlusconi da tempo sarebbe in paranoia, perché Silvio Di Matteo si fida sempre meno. Le possibili variazioni in tema riforme centrano fino lì. Tutte le rivoluzioni annunciate dal premier a Berlusconi in fondo interessano poco, i tecnicismi lo annoiano, nei dettagli l'uomo si perde. Ha dato ai negoziatori carta bianca perché sul Senato se la sbrighino con la Boschi, che entro oggi farà pervenire il testo degli emendamenti. Comunque c'è un Berlusconi che si sente al centro del ring, di contare almeno ancora come una volta, dunque di essere partner privilegiato di Matteo il Fenomeno, così lo chiama, Matteo il Fenomeno. Per la verità però questo dialogo tra Movimento 5 Stelle e PD un pochino rischia di farli pensare di essere isolato. Dall'altra parte c'è Sel in grave difficoltà con Vendola, che resiste alla diaspora dei suoi. Questo è il titolo del Corriere della Sera, una sorta di OPA ostile nei nostri confronti da parte del PD. Sentite in che cosa è riuscito a prodursi Vendola ieri nella riunione di Sel, come scrive Tommaso Labate a pagina 9. Infilzando il coltello della narrazione del dibattito, dice: ecco a chi mi accusa di ambiguità, io questa ambiguità la rivendico rispetto alla ricerca della terra di mezzo, alla terra che sta tra Schulz e Tsipras. Sel può essere il lievito di questa ricerca. Ci tradurrà tutto Mauro Meazza, che saluto, buongiorno, hai capito? Buongiorno, non sono all'altezza. No, io la terra di mezzo me la ricordo per Frodo e l'anello magico. Sì, certamente, ma si colgono echi, devo dire, anche di un certo eclettismo culturale che sul momento, così alle 7:42 del mattino, non mi sembrano dura. Semplicissimi. No. Posso cavarmela parlando dell'intervista al ministro Lupi sul trasporto aereo, che forse è più concreta. Sì, no, per carità, in questo momento mi risulta più accessibile, quantomeno a me, ma poi adesso vado a studiare sicuramente. No, buongiorno anzitutto a Alessandro, buongiorno a tutti. Abbiamo appunto questa intervista a Lupi perché si parla di Alitalia Etihad, anzi di Alihad, e si, dall'intervista, tra le altre cose, noi cogliamo anche che si sta lavorando a questo decreto per far un po' ripartire l'Italia, un secondo decreto che dovrebbe arrivare a luglio, e appunto uno sblocca Italia in cui il ministro annuncia che verranno utilizzati anche dei fondi attualmente bloccati, tutto quanto affidato a Giorgio Santilli che lo riferisce oggi. E poi è tornato Cottarelli, non so se hai notato. Ah, no? Sì, quello che vuole spegnere era un po' che non parlavamo. I lampioni, certo. Sì, beh, adesso su questa cosa dei lampioni so che si fa dell'ironia. In realtà è un tema molto sentito, in realtà. Credo che poi lì si tratti anche di cambiare le lampadine, se ho capito bene, perché usiamo delle lampadine un po' costose. Ma è tornato anche annunciando un taglio robusto alle partecipate che dovrebbe arrivare entro luglio, per cui da 8.000 società partecipate dai comuni bisognerebbe scendere a 1.000. Un obiettivo non da poco, direi, non so poi nella terra di mezzo lì tra gli 8.000 e i 1.000 che cosa troveremo, però questo è quanto annunciato ieri e quanto riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine non di norme e tributi. Ah, ben fregato, eh. No, ti ho fermato prima, non volevo farti che tu ti facessi del male. Ti segnalo oggi le pagine di Casa 24, soprattutto un lavoro sul fotovoltaico che, come sai, gode anche di incentivi fiscali, sono un po' usufruire di incentivi fiscali, e in quanto tempo si ripagano gli investimenti per il fotovoltaico per produrre energia per conto proprio. E poi, guarda, hai visto che si sono ritrovati i due decreti che si erano perduti nel bosco tra Palazzo Chigi e la Gazzetta Ufficiale? Sì. Parlo del decreto sulla pubblica amministrazione e del decreto per lo sviluppo. Si sono ritrovati, sono arrivati in Gazzetta Ufficiale, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Noi, per festeggiare la circostanza, oggi cominciamo con una serie di pagine dedicate ai due decreti, li festeggiamo, parliamo oggi tra le altre cose anche degli incentivi fiscali come l'ACE, che è un incentivo che tu non conosci, caro Alessandro, ma i nostri lettori conoscono molto bene, e anche della Guidi Padoan, che somiglia un po' alla Tremonti. So che sono stato un po' criptico, ma in fondo chi doveva capire, terre di mezzo, come sempre. E quindi a questo punto, voglio dire, ognuno gioca le carte che ha, e io l'ho messa così. Oggi quattro pagine fuori di Celia, quattro pagine, le prime quattro pagine di una serie dedicate appunto ai due decreti che si erano perduti ma che abbiamo ritrovato, i decreti prodighi, forse possiamo dire, definirli così. Va bene. Non so, è il momento di il momento una sola tuo. Parola. Vabbè, allora la dico. Traffico. E allora, alle 7:47 minuti, una notizia che mi ha colpito di esteri, e te trovate sulla Stampa a pagina 13, proviene dalla Bolivia in Sud America, dove c'è uno sciopero di bambini perché chiedono lasciateci lavorare a 10 anni. Ci sono anche proteste e scontri nella capitale La Paz. Il governo abbassa l'età per l'impiego legale. Questa settimana, scrive La Stampa con Filippo Fiorini, il Parlamento boliviano approverà una legge sorprendente. Sarà permesso di lavorare a tutti i bambini di 12 anni che manifestino la volontà di farlo, che abbiano il consenso dei genitori e l'ok delle istituzioni di protezione all'infanzia. Inoltre, se addirittura lavorare come dipendenti in una fabbrica di scarpe, una piantagione di arance, si metteranno in proprio, come fanno i piccoli venditori di caramelle o gli strilloni, potranno addirittura iniziare a 10 anni. Una riforma che a prima vista sembra mettere un giogo alla spensieratezza, è invece una vittoria del sindacato dei bambini boliviani, che negli ultimi 3 anni si è mobilitato in scioperi, volantinaggi, proteste, scontrandosi anche con la polizia per chiedere l'abbassamento dell'età in cui si può iniziare a lavorare. È una pagina molto interessante che vi segnalo sulla Stampa a pagina 13. E poi dalla Bolivia al Brasile il passo è vicino. Per parlare delle tante polemiche che ancora ci sono, ci concentreremo su questo dalle 8:15. Avremo ospiti Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, avremo ospite Idriss Sanné. Insomma, che ha combinato Balotelli? L'ultima che tutto quello che fa Balotelli spacca l'Italia in due, questo è abbastanza chiaro. Rispondendo alle accuse di un tifoso, ha detto: io mi sento italiano, o forse, come dite voi, non sono italiano, ma gli africani non scaricherebbero mai un loro fratello, mai. In questo noi negri, come ci chiamate voi, siamo anni luce avanti. Vergogna. Questa è la difesa, l'autodifesa di Balotelli, che non ci sta a passare per capro espiatorio della disfatta dell'Italia, e quindi è tutto un profluvio di titoli. Balo spacca l'Italia, questo è il titolo di apertura della Gazzetta. Balotelli vittima di se stesso per Libero, rabbia Balotelli per il Corriere. Il Giornale addirittura dedica il titolo di prima pagina a questo, il titolo di prima pagina del Giornale è «Italiani, meglio i negri». Questo il virgolettato attribuito a Balotelli, il concetto è un po' diverso. Comunque il calcio in realtà è soprattutto la morte di Ciro Esposito, e questa la vera sconfitta, come dico da due giorni, del calcio italiano, la morte di Ciro Esposito che rischia di trasformarsi, come raccontano tutti i giornali, anche da parte di qualcuno in un desiderio di vendetta, nonostante gli appelli accorati della madre, dei parenti di Ciro a dire nessuna violenza in nome di Ciro Esposito. Parla, e lo fa per la prima volta, anche il papà di Daniele De Santis, colui che è accusato di avere sparato a Ciro Esposito. Anzi, tutti i giornali raccontano che Ciro Esposito, durante questi 50 giorni di sofferenza dal giorno in cui è stato ferito alla morte, ha anche riconosciuto Daniele De Santis come colui che avrebbe sparato. È stato il chiattone, ha detto, secondo il Fatto, riconoscendo Daniele De Santis. Ebbene, parla per la prima volta a Repubblica il padre di De Santis, lo fa con Federica Angeli che lo intervista, pagina 15. Non l'ha ucciso lui, ieri ha anche pianto quando ha saputo che è morto Ciro Esposito. Mio figlio non ha sparato, lo dice anche il primo esame dello STOB a cui è stato sottoposto. Lui ha detto che gli hanno menato, poi non ricorda più niente. Quel taglio che ha qui in testa, il giudice ha detto che è stato il calcio di una pistola che gliel'hanno spaccata in testa. Lui ha le chiavi del cancello del centro Chuck dove l'hanno picchiato. Ha sempre detto a noi che non c'entra niente, non ha mai sparato, l'abbiamo spinto a parlare. Cosa crede che la passava così senza dare una spiegazione ai noi genitori? Ma lui ha detto: apà, quando m'hanno acchiappato io non ho visto più niente, mio figlio non aveva la pistola. Certo, questa è la versione del padre, tanto che Federica Angeli a un certo punto dice: mi scusi, ma se suo figlio le avesse mentito, l'uomo, prima di rispondere, dà un pugno contro la porta di casa. Io vi dico la verità, se mio figlio l'ha ammazzato è giusto che faccia 30 anni di carcere. Mio figlio però ha detto: io non sono stato papà, a me basta, io ci credo. Poi, se mio figlio mi ha detto una cazzata, quanto è vero Dio, ci penso io a lui. Così il papà di De Santis, ma certo il Viminale è già preoccupato, si pensa allo stop alle trasferte per l'anno prossimo, perché è già caccia a De Santis, tanto che ieri è stato trasportato d'urgenza dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato in un ospedale rifugio dove vengono curati anche i detenuti al 41 bis. Speriamo bene. Voglio chiudere. La carta costa è dedicata oggi, mi attirerò quante critiche ai nostri amici animali, tutti al mare col cane, una pagina intera di Libero che dedica una pagina al tema con Alessandro Gonzato. Il Veneto apre spiagge e parchi agli amici a quattro zampe, una rivoluzione in Veneto cominciata con Fergi, l'antidudù dell'Italia dei valori. Fergi, ma dai, su, ma andate con i vostri cani, amici cani, dove volete, ma chi se ne frega di parlarne per una pagina sul Libero. La carta costa, è arrivata la coppa e settimana prossima la consegneremo al vincitore. Scoprirete tutto.